5C. Ascolta e trasforma. Invitalo alla festa. Non invitarlo alla festa. Aspettalo al bar. Non aspettarlo al bar. Convincila. Non convincerla. Attendila alla stazione. Non attenderla alla stazione. Servili al tavolo. Non servirli al tavolo. Seguili a piedi. Non seguirli a piedi. Puliscile. Non pulirle. Uniscile. Non unirle.